Il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Quella di oggi è una puntata speciale perché voglio parlarvi di una vera e propria icona del mondo del circo, Moira Orfei, che ha sempre guardato il mondo dall'alto della sua capigliatura che le regalava almeno 20 centimetri di statura. La vita di questa famosissima donna con il turbante amante degli animali feroci, vita che si è fermata domenica scorsa, il 15 novembre, mentre il suo circo era in programma a Brescia e stava per arrivare qui a Milano. Mio trisnonno era un prete missionario, un signore che andava nel Montenegro a battezzare e si è innamorato di questa bellissima zingara, che più bella di così non si può. Si è sfrettato, come dicevo una volta, che era uno scandalo, e scapparono in Italia lei e lui con 4 cagnolini e un orso, e sono venuti a lavorare in Italia in piazza, come fanno adesso in piazza, lo facevano allora, e da lì è nato il Circo Orfei. E una delle ultime interviste, credo l'ultima, a Moira Orfei è stata quella realizzata da Paola Carmignani del Giornale di Brescia. Paola Carmignani è andata a trovarla nella sua celebre carovana proprio in occasione del suo arrivo. Buongiorno Paola. Buongiorno. Buongiorno. Senti, come hai trovato Moira Orfei? Ho incontrato una persona estremamente serena, sorridente, aveva il trucco naturalmente, aveva certo appena fatto il giro della pista e quindi era truccata come l'abbiamo sempre vista. Era una persona che guardava molto al futuro e poco al passato, parlava sì dei nipoti, parlava del futuro del suo circo e parlava molto del lavoro che aveva fatto e del fatto di essere artista. Per lei questa parola lavorare e la parola artista sono tornate tantissime volte nella nostra conversazione. Certo, di cosa avete parlato nell'intervista? Ti ha raccontato qualcosa di curioso che ti sei ricordata dopo? L'ho fatta parlare molto dei suoi animali perché mi sembrava giusto. Mi ha raccontato il rapporto in particolare con gli elefanti, che lei riteneva più intelligenti dei cavalli, e con uno di questi aveva avuto un feeling particolare, con questo Whisky. E mi diceva, ho una fotografia con Whisky che mi accarezza con la proboscide, e io le ho chiesto cosa aveva di particolare questo Whisky, e lei mi ha detto è perché si comportava come un cagnolino, non come un elefante, e mi voleva bene, proprio mi amava, e tra tutti era il suo prediletto. E sei stata nella sua mitica casa mobile, no? Esatto, sì. Raccontacela un po'. Sì, guarda, una sorta di bomboniera foderata di stoffa rosa chiaro. Lei pure quel giorno era vestita di rosa chiaro, con una gonna nera e con delle rose chiare cucite sulla gonna. E questa casa era zeppa di fotografie. Come entravi, vedevi subito la fotografia, i primi piani del suo papà e della sua mamma, il sì pagliaccio, bellissimi. E poi tutte le fotografie del cinema, naturalmente. Ovunque sui tavolini che c'erano intorno c'erano le fotografie con Federico Fellini, con Mastroianni e quant'altri aveva incontrato. E poi c'erano tantissime statuette di Padre Pio, non le ho contate, ne ho viste almeno 4, alte una spanna o due, ed erano sparse praticamente ovunque, come fossero proprio protettive nei suoi confronti. Grazie, grazie Paola, sei stata gentilissima, buone cose. Grazie a voi. E allora andiamo avanti a parlare di Moira Orfei proprio attraverso il luogo in cui vive, si muove da tutta una vita, il suo caravan, mai chiamarla roulotte. Lei non ha mai vissuto in un appartamento, in una casa in mattoni, perché è nata e cresciuta spostandosi di continuo. Quella in cui ha vissuto per tutti questi anni era una vera e propria villa su ruote. Quando si ferma a destinazione grazie a un sistema idraulico si allargava di 8 metri che sembravano ancora di più grazie a un gioco di specchi, lo racconta bene proprio Iva Zanicchi, che anni fa l'ha ospitata durante un programma in TV. Sono andata in questa villa vagante, che è la tua... La mia caravana. La tua caravana, sì. La roulotte, tu hai una roulotte che è una villa. È 24 metri. È 24 metri, arredata in stile veneziano. Sì. Sono entrata dentro, qua dove sono arrivata? Versailles. E là dentro... È più bella la mia caravana che quella di Stefania di Monaco. Lei, ciappa. E in questa villa di Versailles, un po' barocca, c'erano salotto, camere, tendaggi rosa, paillette, colori, cornici d'argento, premi, telegatti, insomma, tutto quello che era lo specchio della vita di Moira Orfei, un caravan che sembrava arrivare direttamente dal mondo delle favole, roba da centinaia di migliaia di euro. La stessa Moira un giorno disse: solo qualche sceicco arabo ce l'ha così lussuosa. Alle pareti decine e decine di dipinti, tutti con una sola protagonista, lei, Moira. Una foto incorniciata che farà il giro del mondo è quella di Mario De Biasi, un fotografo di fama internazionale che la ritrae mentre passeggia a soli 16 anni in corso Vittorio Emanuele a Milano. Lei è bellissima, fasciata da un vestitino bianco, e talmente magnetica che fa girare tutti i passanti. Il titolo dello scatto è «Gli italiani si voltano». La sua vita e la sua bellezza affondano le radici in una famiglia di circensi che è presente in Italia da quasi 200 anni. Era originaria del Montenegro, ma stiamo parlando del 1820 e siamo in Montenegro. E da quel momento comincia l'avventurosa storia della famiglia Orfei, del circo Orfei, grazie a Ferdinando Orfei e a Veka Torevic, arrivati da noi, che creano un piccolo teatro itinerante, iniziano a fare spettacoli per strada, tra piazze di paese. Dalla metà dell'Ottocento in Italia si affermeranno altre famiglie circensi, i Togni, i Medini, i Medrano. Nel corso di 5 generazioni gli Orfei diventeranno uno dei più importanti circhi del mondo. È figlia d'arte, è nata dall'unione del celebre clown bigolon Riccardo Orfei e della funambola Violetta Arata. Miranda, all'anagrafe, inizia la sua avventura nella vita nel 1931 in un piccolo paese in provincia di Udine, a Codroipo. Però la sua è una vita vissuta tutta all'ombra del tendone. A 20 anni è già cavallerizza, trapezista, è la stella del circo Orfei dello zio Orlando Orfei. Però la sua indole, il suo futuro erano già tutti scritti appena nata. In fondo, come poteva Miranda Orfei, poi divenuta Moira, fare altro nella vita? Ecco cosa raccontava in un'intervista. Ho iniziato ad esibirmi a 6 anni in un balletto acrobatico con mia cugina e da allora non ho mai abbandonato il circo e la vita nomade. Oggi non mi esibisco più, se non nei saluti finali. Potrei starmene tranquilla nella mia villa a San Donà di Piave, ma adoro vivere sulle ruote. E poi la mia carovana è lunga 24 metri, è molto larga, è come una casa. Il falco e il gabbiano. Moira Orfei, all'anagrafe Miranda, che è un nome che deriva dal latino, significa degna di ammirazione, e racchiude in sé già il futuro di questa donna che vivrà per stare in pista sotto i riflettori. Da ragazza però tutti la chiamano Mora per il colore scuro della sua pelle, per quello sguardo gitano che riflette le sue origini sinti. Il mio vero nome è Miranda, ma non mi hanno mai chiamato Miranda, nemmeno da piccolina, nemmeno quando avevo un anno, era talmente scuro che mi hanno messo il nome Mora. Mora perché ero nerissima, scura di pelle. E quando Giuseppe Perrone mi ha preso come agente, ha detto: Mora è un nome un po' volgare, mettiamo una I in mezzo e ti chiamiamo Moira. Da Moira Orfei. E così Miranda diventa Mora e quindi Moira, e inizia nel circo dello zio Orlando come cavallerizza, virtuosa del trapezio, acrobata. Insieme alle cugine canta mentre volteggia sui trapezi, e sempre in quell'ambiente conosce l'uomo che le rimarrà al fianco per tutta la vita. Siamo nel 59, stiamo parlando di un altro grande nome del mondo del circo, Walter Nones. Lui è nato a Belluno da Giuseppe Nones, è sportivo, praticante, e da Adele Medini, vedete gli incroci, che proviene da un'altra celebre dinastia del circo italiano. Lavora con suo fratello e sua sorella, trio acrobatico che viene invitato a esibirsi in una puntata particolare, l'ultima puntata di un programma mitico, Il Mattatore di Vittorio Gassman. Siamo nel 59. dove la puntata si svolge a Prato, al circo Orlando Orfei. In quegli anni Walter è un acrobata, mentre lo zio di Moira, Orlando, è un grande domatore. Come voi potete vedere, stanno montando i ragazzi la gabbia a tempo di record. Di solito ci mettiamo meno di 3 minuti. Credo che in fatto di montaggio di gabbia siamo il circo più veloce che c'è in Europa. Volevo solo dire, caro Vittorio, che i miei leoni sono ammaestrati in dolcezza. Però con le telecamere, con tutta questa confusione, con le, sì, come si chiamano, le giraffe, non so se il numero potrà riuscire come al solito. In ogni modo io faccio tutto riuscirà quello che posso. Ciao Orlando, stanno grazie. Stanno preparando ancora due parole perché stanno terminando di preparare la gabbia. Benissimo, mi dice mio nipote che tutto è pronto. Arrivano i leoni. Arrivano i leoni e mi vado a preparare. Nel 1961 Moira e Walter si sposano. L'inizio degli anni 60 è il periodo della grande svolta per lei, per la nostra protagonista, perché intanto dà vita a un matrimonio duraturo, cosa sempre più rara, e poi fonda il circo di Moira Orfei, che con il tempo diventa uno dei più grandi d'Europa. Si esibisce anche Walter, che impara l'arte del domatore di bestie feroci con dolcezza, tanto che lui non usa neanche la frusta, ama il contatto con tigri e leoni a mani libere. Però anche lei quindi inizia a lavorare con gli animali, colombe, tigri e infine i prediletti elefanti, da cui deriverà il nome in cartellone, Moira degli elefanti. Ma come ci arriva quel look così particolare, esuberante, il look che rende Moira inimitabile, unica nell'intero panorama internazionale? Beh, ci arriva per un incontro fortuito con un uomo, il grande produttore Dino De Laurentiis, perché lui nei primi anni 60 che vede in lei la diva che diventerà, è lui che capisce la potenza artistica di questa trentenne, la invita a cambiare nome, a raccogliere i suoi capelli neri in un turbante, come lo possiamo definire, scenografico, suggerisce questa immagine che diventa quella universalmente riconosciuta di lei, gli occhi incorniciati da quello che voi donne chiamate eyeliner, no? Il rossetto brillante e un neo sopra il labbro. In Italia quanto siamo? 60 milioni, sì. Beh, così ci sono solo io. Pettinata così, truccata così, vestita così, perché io esco con lustrini, strass, scarpe alte. Mi sono creata, non io, ma Dino De Laurentiis, quando mi ha chiamato per fare il primo film, mi ha messa così e poi mi ha detto: stai così perché le donne che cambiano look spesso non hanno personalità. E io sì, con la mia personalità è così e piace alla gente. Io sono una che sembra che miro le arie perché c'ho pettinata così, truccata così, invece quando mi parlano sono normale, parlo con i bambini, parlo con le mamme, molto mi piace. Beh, il look è particolare, insomma, però ci vuole molta dolcezza, molta ironia, soprattutto molta simpatia, che è poi il segreto del suo successo. Lei è bella, è giunonica, però è magnetica, non ha mai studiato recitazione, eppure viene scelta per interpretare 47 film. Inizia nel 60, quando Duilio Coletti la nota a Trastevere, a Roma, insieme allo zio Orlando, le offre una parte nel film Sotto 10 bandiere. Lei è molto bella, porta la sua bellezza, il suo personaggio con molta naturalezza, così altri artisti la scritturano, come Fernando Cerchio per un film, Totò e Cleopatra, quindi con Totò nel 63. Permette? Mio prode dolcissimo sposo. Buongiorno, riverisco, faccio la riverenza. Ah, ah, e questa è una moglie a due piazze. Sono lieta di dare la mano al nobile Marcantonio. Ma che Marcantonio? È Marcantonio d'Egitto, qui non c'è nessun Marcantonio. Come non c'è Marcantonio? No, non c'è Marcantonio. Come non c'è Marcantonio? Non c'è Marcantonio. Non c'è? Chi l'ha detto che non c'è? Come? Io gli so. Non sono Marcantonio forse. E che pezzo di Marcantonio sono? Mi compiaccio che tu non sia più il Marcantonio d'Egitto. Hai visto? Scena tratta appunto da Totò e Cleopatra. Moira è sposata, però Totò ci prova, così racconta lei stessa. Mi ha visto e mi ha cominciato a fare la corte, ma io stavo sulle mie, no? Poi mi ha detto: senti Moira, se venite con me ti do 30 milioni, l'equivalente di un appartamento, non ti faccio niente, ti accarezzo solo, ma non ti faccio niente. E io le ho detto, per non metterlo in imbarazzo: ma caro principe, se io non fossi innamorata così di mio marito, verrei subito con lei. Però sono così innamorata di Walter che non posso venire né con lei né con altri. E così l'ho accontentato senza fargli capire che mai sarei andata con lui. I 30 milioni erano una bella cifra in quegli anni lì. E comunque ci sono tante altre pellicole, Il Monaco di Monza con Totò, poi Signore e Signori di Pietro Germi. È stato proprio Germi a dire: Moira, se tu studiassi recitazione saresti brava come la Loren. Così va avanti, recita al fianco di Mastroianni in Casanova 70, ma anche al fianco di attori dai fisici muscolosi ai tanti che mettono probabilmente a dura prova, insomma, la sua fedeltà coniugale. È vestita come una regina in Maciste, l'uomo più forte del mondo del 61, dove recita anche una giovane e bellissima Raffaella Carrà. Vieni avanti. Qual è il tuo nome? Saliura. Sei bella, Saliura, e giovane. Sarebbe un errore aggregarla alle nostre schiave, vero Cap? Tu sei veramente una creatura solare. Per questo servirai ad attirarci le grazie della Dea della Notte. Portatela via! Ma anche se Moira Orfei si presta molto al mondo del cinema, lei ha le idee ben chiare, perché ama molto di più il circo, al punto che è un mondo che lei non ha mai lasciato fino alla fine. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando, in qualche modo celebrando, la diva del circo italiano, Moira Orfei, rimasta fedele fino all'ultimo al circo, al suo look da bambola di ceramica con il suo turbante, il rossetto e il fard color pastello, insomma l'immagine che ben avete sicuramente presente. È una storia che coincide con quella del circo italiano, anche se la bellissima Moira ha avuto anche il piacere, l'onore di interpretare 40 film, dalle commedie leggere fino a titoli di autori impegnati. Si dice che Totò e molti altri l'abbiano fatto alla corte, non abbiamo ragione per dubitarne, però lei non ha mai abbandonato il suo primo, vero, unico, grande amore, il marito Walter Nones. E infatti lui è sempre al suo fianco, è un impresario, è un domatore, lui l'ha portata al successo, ha portato al successo il suo circo, perché il circo si chiama Circo Moira Orfei, ha prodotto grandi spettacoli come Holiday on Ice, il circo di Mosca sul ghiaccio, il circo di Mosca, il circo cinese e l'Armata Rossa, perché peraltro è uno che ama lavorare, al contrario della moglie che è così appariscente, lui appare poco, ha un basso profilo, è schivo e molto dedito al suo lavoro, e il padre lo voleva ingegnere navale, lui però ha avuto un'attrazione magnetica verso il mondo del circo. Poi dopo l'incontro con Moira ha fatto qualsiasi cosa, l'organizzatore, il giocoliere, l'acrobata, il presentatore, il domatore, diventando peraltro un caposcuola nel settore, perché ha introdotto un addestramento in dolcezza, che è una disciplina che porta il domatore a stretto contatto con le belve a mani libere. Lui, Walter, ama gli animali, ha un rapporto molto personale con gli animali, perché va detta anche questa cosa, che chi fa il circo gli animali li ama, non li sfrutta. Adesso va molto di moda, insomma, fare gli animalisti d'accatto fino all'ultimo. Non è così, chi ama il circo ha un rapporto stretto con gli animali. Ha avuto anche degli incidenti Walter Nones, e ha sempre detto che la causa era lui, cioè era lui avere sbagliato, magari sottovalutando, non so, i segnali mandati da una tigre. Lascia i leoni e le tigri nell'83 e agli eredi, che sono i due figli Stefano e Lara, che peraltro hanno reso la coppia nonni. Sono giovani, sono molto bravi i miei figli, il nome della Moira è fortissimo, perciò loro hanno un grande capitale, hanno un mito vivente. Oggi con la crisi che c'è chiaramente è più difficile, ma quello che ci mette molto in difficoltà e la burocrazia che c'è oggi. L'arrivo dei figli non ha cambiato la vita girovaga della coppia. Negli anni Lara diventa una cavallerizza su pista, Stefano, che voleva fare il calciatore, in effetti giocava molto bene, alla fine segue le orme del padre come domatore e ottiene grandi riconoscimenti internazionali e diventa co-direttore del circo. Vi presentiamo, signori, leonesse e tigri reali del Bengala. Sono tutte nate al circo, cresciute ed allevate da Stefano, che ha voluto con loro adottare un particolare addestramento, lasciando intatte il loro libero e l'aggressività propria di questi animali. Sono addestrati utilizzando il rinforzo positivo del premio, in questo caso il pezzettino di carne che serve a far comprendere all'animale che ha eseguito correttamente il proprio lavoro. Poi gli anni passano e Moira diventa nonna, Lara dà alla luce due bimbi e finalmente si torna alle vecchie meravigliose abitudini. Moira Junior, Walter Junior come i nonni, alla faccia di Jodorowsky che dice che faccia male ai bambini. Comunque i bambini diventeranno artisti circensi anche loro, mentre Stefano Nones Orfei sposa Brigitta Boccoli, una attrice, una showgirl conosciuta da molti per una presenza continua in programmi TV come Domenica In. La coppia agli aresi nonni anche in questo caso, il bambino si chiama Manfredi e anche lui a volte esce in pista con gli elefanti, evidentemente è una passione proprio genetica. E pensate come Stefano ha incontrato Brigitta, beh, nel mondo del circo, però in un programma televisivo che io ricordo, si chiamava Reality Circus, era condotto da Barbara D'Urso, i concorrenti si sfidavano in ogni tipo di prova, quindi c'era l'istruttore, quello che ci sapeva di qualcosa, e poi il concorrente del reality, era mi sembra il 2006. Brigitta e Benedetta Boccoli, grazie al domatore degli elefanti Stefano Orfei Nones. Grazie. Ce l'avete fatta? Sì, ce l'abbiamo fatta. È andata. Erano spaventatissime, anche perché dovete sapere, ormai noi sono mesi che viviamo nei circhi, nel circo di Orfei, che la cosa più difficile di questo esercizio è quello che si chiama il valzer. Quando gli elefanti girano così, è una velocità incredibile. Sembra loro... facile, ma ti butta giù. Sentiamo Brigitta in un'intervista rilasciata a TV2000. In realtà è proprio il caso di dire che il fato esiste, perché io non ero mai stata al circo in vita mia e non ero neanche attratta dal circo. Ho fatto questo reality e in questo reality ho conosciuto lui, la sua famiglia, le persone che lavorano con lui, tutti i suoi numeri, e da lì ho iniziato a dire no, forse però il circo non è esattamente quello che ho sempre creduto, non è triste, anzi è allegro, anzi fa sognare, anzi è bello, anzi... E quindi mi sono appassionata al circo e a lui. Inizialmente per lui ho avuto un'attrazione più di stima professionale, non è stata in realtà un colpo di fulmine d'amore. Poi piano piano, conoscendolo, invece mi sono appassionata totalmente, soprattutto quando sono venuta nel suo mondo e lì mi sono innamorata perdutamente. Beh, certo, avere Moira Orfei come madre deve essere un'esperienza particolare, ma credo anche averla come suocera. Sentiamo cosa ne pensa Brigitta Boccoli. Moira è una suocera splendida, magari fossero tutte così, perché insomma si ha un po' sempre il terrore della suocera. Moira è adorabile, è così come si vede in televisione, è così simpatica, è così sanguigna, è così vera, talmente vera che se non gli fossi piaciuta me l'avrebbe detto. E invece dopo il primo momento in cui mi ha osservata per capire bene se amavo Stefano, lo amavo veramente e quindi lo sostenevo nel suo mestiere, o se volevo portarlo via, allora dopo che ha capito che non lo avrei mai portato via, mi ha voluta bene. E Moira Orfei non ha mai lasciato il circo, però si è prestata volentieri, l'abbiamo già detto prima, al mondo del cinema, della televisione, con ruoli magari particolari, con questo personaggio simile a se stesso che doma gli elefanti ma anche gli uomini. E poi però ci sono dei punti diversi, per esempio mi ricordo una assillante moglie di Christian De Sica nel film Vacanze di Natale 90, dove c'è questa Moira che sbraita in dialetto marchigiano contro un marito inetto. Sentiamola. Buongiorno, avevo prenotato una bellissima matrimoniale. Adesso controllo. Excusez-elle, suite, pardon, a nome mi cresce. Prego, io farei scortichini, pelletterie, scortichini, andiamo su. Sto ridetti, mica stanno a macerata. C'ho tutti i piedi fracicati, li devo mettere a mollo, so stanga. Allora, sono fuori sta matrimoniale? Ah. Tieni, hai visto come l'ha data? Tesoro, che mi porteresti il pacchetto, mi fa bozzantare. E dormi. È sottoturbante, ci metti sempre tutto te. E ieri Rossetta, hai milizia, ma non è meraviglioso qui? E lei è sempre stata anche molto amata dal pubblico della TV, è comparsa spesso come ospite nei programmi, nei salotti televisivi. Per esempio c'è un 25 marzo 75 in cui lei è ospite di un programma di cucina intitolato A tavola alle 7 con la mitica Ave Ninchi a condurre insieme al gastronomo Luigi Veronelli. È un programma antesignano dei tanti programmi di cucina che fanno oggi. Signori, abbiamo qui una concorrente, ma che concorrente, una meraviglia di donna, eccola qua, Moira Orfei. che effetto fa essere così belli? Oddio, Mara, io non sono così bella come dici tu. Oh, mamma mia, senti una cosa. Ah, però, io una cosa. Volevo dire una cosa. Poco fa si parlava insieme, allora è venuto fuori che la nostra Moira ha aggiunto un'altra freccia al suo arco meraviglioso. Sa fare tante cose la Moira. E adesso canta. Canticchio, Ave. No, che canticchio. Hai fatto addirittura un bellissimo disco che si chiama Noi Zingari. Trovo molto bello che lei si sia ricordata dei della suoi compagni e della sua gente. E poi mi hai detto una cosa molto bellina. Dice che aveva tanta paura in sala d'incisione. Ma è vero? Guarda, ti dico la verità, preferisco lavorare con gli elefanti che incidere un disco 12 ore là in sala d'incisione con queste cuffie, così ero impazzita dalla paura. Sì. Beh, un brano particolare, diciamo che insomma non è eccelso dal punto di vista della canzone. Lei canta, tenete conto che in quegli anni lì non c'era l'intonizer, cioè non c'erano tutte le cose che fanno sembrare degli ottimi cantanti oggi delle persone che invece cantano molto male. Qui andavi veramente nella gabbia delle tigri quando entravi in studio di registrazione, quindi insomma tutto sommato diciamo che una voce così con le meccaniche di oggi sarebbe una voce accettabile, magari andrebbe anche in classifica. Però tra i suoi valori bisogna parlare di un'altra cosa che la caratterizza, la fedeltà. Lei ha tutta una sua idea sulla fedeltà, sentiamola in un'intervista risalente a qualche anno fa. Io sono un'araba da quel lato lì, guai. Se vedo una moglie che fa le corna al marito, per me diventa una prostituta, anche se ci va una volta solo. La fedeltà è un valore assoluto per lei? Per me sì, molto. Anche da parte dell'uomo nei confronti della moglie? Io vorrei, ma mio marito, cara signora, abbiamo fatto altre di quelle corna. Non è che lo vedo proprio all'azione, vedevo che faceva gli occhietti così. Io lo spiavo delle gradinate. Dopo 20 anni lui mi ha fatto una confessione. L'avrei ucciso. Mi ha detto: quando tu mi spiavi delle gradinate, io ti vedevo il cucuzzo e cambiavo strada. Ha capito che cosa mi ha detto? È un farfallone. E l'ha perdonato? Ma sempre, perché lo amo. Se non lo amassi, un calcio nel culo, via. Grande, grande Moira. Da questo punto di vista, insomma, gli uomini all'ascolto non possono che condividere. Da tempo Moira non lavorava più attivamente nel suo circo. A conclusione dei grandi spettacoli usciva a salutare il pubblico, attraversava la pista, salutava tutti come l'icona che era in realtà. Una donna che sicuramente ha volato in alto, ha lasciato un segno, ha lasciato una caratteristica precisa che era la sua faccia, il suo modo di essere e di vivere. E ognuno di noi nella sua vita può cadere, però può anche darlo quel colpo d'ala che ti fa volare in alto. Beh, se volete mandare degli altri commenti o segnalarci delle altre vite, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, venite a trovarci, a trovarmi in tutti i nostri social, insomma, se volete, sapete dove sono e dove siamo. Ciao, a lunedì.